Bene, passiamo poi a Mario Guaraldi, nei panni dell'editore, poi con lui faremo qualche chiacchierata anche per quanto riguarda la formazione. Da questi racconti che ci hanno fatto Simone e Francesca abbiamo sentito il problema della fiducia che ciascun lavoratore ha verso il proprio lavoro, verso se stesso, verso il datore di lavoro. Tutti questi tre aspetti vanno un po' in crisi, viste queste condizioni di lavoro. Però d'altra parte c'è anche il problema, quindi dell'editore, quindi di colui che fornisce il lavoro, che ti assume. Vorremmo sapere allora cosa succede nel mercato dell'editoria, cosa è successo negli ultimi anni per arrivare a questa situazione con il precariato, con lavori interinali, con anche problemi di esternalizzazione selvaggia. Bene, allora, permettetemi intanto di dichiarare subito che ho due cappelli in testa, quindi è corretto che dica quale mi metto quando dico certe cose, quando mi metto l'altro, quando non dico altro. Il primo cappello è quello del docente universitario, cioè io ho creato in pratica un corso di laurea che si chiamava fino all'anno scorso Editoria, Media e Giornalismo. Non è un master, è una biennale, anzi è una triennale con biennale di specializzazione a Urbino, va bene, una magistrale. Da quest'anno si chiama Editis perché è diventato un corso interfacoltà con lettere per biblioteconomia, quindi con tutta la problematica anche delle nuove forme di archiviazione digitale e quant'altro. Sono quasi certo che non riusciremo a farlo vivere questo corso, perché se esiste un problema di precarietà all'interno del mondo dell'impresa, esiste un ben maggior problema di precarietà all'interno del mondo universitario, dove non è più possibile fare ricerca, dove cioè, è stato veramente distrutto quasi alla base il principio, però nessun problema. Allora, in veste di docente, devo dire che da 5 anni a questa parte, ho la soddisfazione, devo dire, rara, abbastanza preziosa per me, di rendermi conto che i ragazzi che vengono a fare, io seguo gli ultimi 2 anni, quindi faccio la magistrale, sono delle persone fra le più straordinariamente competenti che abbia incontrato nella mia lunghissima vita editoriale. Cioè c'è un livello di qualità degli allievi che è assolutamente non normale, non normale. Soprattutto per chi poi leggendo i giornali invece vede che si è normalmente a parlare di bamboccioni, di figli di papà che bruciano i barboni e cose di questo genere, d'accordo? Quindi la prima consolazione è questa. Con molti di questi ragazzi io sono costretto all'inizio a fare una specie di gioco violentissimo in cui io li prendo proprio letteralmente a pedate perché mi rendo conto che sono non alla prima esperienza universitaria, sono alla seconda, alla terza, alla quarta, hanno fatto altri 2 master, cioè sono in realtà questi bravissimi, preparatissimi ragazzi, gente che ha un terrore folle di confrontarsi con la realtà, proprio per i motivi che dicevate voi prima in quei racconti. Quindi il timore di andare a confrontarsi e a buttarsi in una mischia talmente inquietante, problematica come quella, li porta a continuare a studiare, come se continuare a studiare fosse una soluzione ai problemi di non avere lavoro, quando in realtà molti di questi sono dei potenziali eccellenti capi redattore per qualunque casa editrice, cioè o eccellenti piccoli editori o eccellenti giornalisti, a seconda delle branche che prendono. Rispetto a questa situazione, la mia principale preoccupazione da docente è quella di aiutarli a prendere coraggio, cioè a dire no, basta, cioè veramente questo è l'ultimo, giurate che non fate più nessun altro corso, che non fate più neanche un master, promettetelo, perché è l'unica maniera per affrontare il problema, d'accordo? Seconda considerazione, allora, beh, dopo dirò in una seconda mandata, casomai, che cosa poi concretamente facciamo con questi ragazzi, perché la seconda cosa che gli devo spiegare immediatamente è non cascate nella trappola dello stage. Basta, Cioè, voglio dire, io mi sono sempre domandato chi è che l'ha inventata questa bufala, questa truffa dello stadio. Cioè, mi sono sempre domandato seriamente perché è chiaramente una truffa, insomma, cioè, si chiama normalmente lavoro non remunerato, si tratta di negoziare, ma l'idea che l'università diventi garante di una truffa per cui garantisco lavoro non remunerato all'interno del mondo editoriale a fronte di una del tutto improbabile momento di acquisizione di professionalità, perché se non l'hai, voglio dire, imparata nei 5 anni di università, ho i miei dubbi che 2 mesi o 3 mesi di lavoro precario dentro un'azienda ti forniscano quel plus che in realtà ti manca. Certo, è vero, si impara un sacco di cose, ma allora a questo punto non avrei neanche bisogno dell'università. Vado a negoziare, mi metto in mercato come forza di lavoro gratuita, voglio dire, ma alla pari, allora gestisco un rapporto paritetico con il mio datore di lavoro. Non vado a far finta di dovermi sentir dire quella cosa che della continua molto carino. Chi è che gli ha scritto quei raccontini lì? Sono voi. Carini. Cioè, quello di tratta, appunto, dice che cosa serve? Serve ad aumentare il vostro curriculum, voglio dire, è una delle cose più turpi che si possono immaginare, perché non è vero niente. Noi, come corso universitario, facciamo una cosa diversa, cioè i ragazzi che lavorano a un progetto editoriale durante il corso, lo realizzano, lo stampano, lo pubblichiamo noi con il numero di ISBN, quello sì è titolo, perché hai pubblicato un libro, con nome e cognome. Bene. All'interno del corso universitario, col marchio dell'università, è chiaro? Quello allora sì, perché tu dimostri quello che sai fare, sei stato bravo, perché davvero lì è il lavoro che fa loro e basta. Quello è curriculum. Allora parliamo di curriculum, adesso cambio cappello e metto il cappello dell'editore. In casa editrice io ricevo mediamente una trentina di curricula alla settimana. Ora, è una roba inquietante, perché 30 curricula alla settimana vogliono dire circa 120 persone al mese che chiedono di entrare a lavorare in una casa editrice che, come tutti sanno, non arriva a fatturare 500.000 euro all'anno, la mia. Va bene? Quindi voi potete immaginare, e qual è la modalità? Intanto, questa cosa allucinante del cosiddetto curriculum europeo, che vuol dire l'omologazione fatta a sistema, cioè una roba ridicola, capito? Cioè, proprio ridicola. È inquietante anche la forma con cui viene presentato il curriculum. Cioè, indistinguibile l'uno dall'altro, indistinguibile, come si possa capire, no, chi è quello che hai di fronte a partire da quel tipo di curriculum è assolutamente è impossibile. Va bene. Per cui la prima cosa che bisogna dire a chi manda i curriculum, primo, e lo dico io ai miei ragazzi, altro cappello, guardate che se mandate un curriculum così, proprio è certo che non viene neanche aperto, non viene neanche letto, non ho il tempo di leggerlo, non ho l'interesse di leggerlo, non ho motivi sufficienti per leggerlo, va bene? Secondo, è evidente che quei curriculum vengono sparati a raffica, sulla totalità delle case editrici italiane, quindi uno prende l'elenco dell'AIE o di Alice e spedisce i 300, 400, 500 curriculum, che è l'atteggiamento tipicamente da rapporto mercenario, come andare a puttana. Insomma, uno dice, ma mi tratti come una puttana? Cioè, voglio dire, ma tu hai mai guardato il mio catalogo? Sai chi sono? Cioè, sai che libri pubblico? Cioè, perché mi sospetto che te non te ne freghi assolutamente niente. È potenziale redattore precario, ho la sensazione che poi in realtà non te ne freghi niente di lavorare da me che mi chiamo Guaraldi, piuttosto che lavorare da un altro editore che si chiama Zanichelli, piuttosto che lavorare da un altro che si chiama, magari, capito, quello che volete voi, o Bruno Editore, che fa le cose di autostima, di New Age, roba che io personalmente aborro. Ma allora mi tratti alla stessa stregua? Come rendere felice la vostra segretaria sbattendoli in un armadio fra le 13 e le 17, cioè questa roba qui, capite? Allora, io il primo problema è, attenzione, perché non sono tutte rose, cioè c'è un atteggiamento molto passivizzante da parte degli aspiranti futuri redattori precari che li configura oggettivamente un pochino come carne da macello, come pecore destinate alla... alla tonsura muta, insomma. Allora, questi sono i due aspetti. Poi c'è il terzo aspetto. Di che casa editrice stiamo parlando? Di quale modello di azienda, tu sei sindacalista, stiamo parlando? Va bene? Perché uno tiene troppo vicino pure cos'è. Vabbè, perché se noi stiamo parlando di un modello arcaico ottocentesco, allora la situazione è drammatica, perché vuol dire tutti i parametri sono saltati, evidentemente, cioè diventa una truffa. Ma è questo un modello? Allora, la mia sensazione è che in realtà noi siamo di fronte a due situazioni di crisi radicale. Da un lato di professionalità, che è la vostra, va bene, dall'altra di modello imprenditoriale, che è quello degli editori, che sono nella cacca fino sopra le orecchie. Perché il vecchio modello non funziona più, il vecchio modo di pensare, produrre e distribuire i libri non funziona più, fa acqua da tutte le parti. Fa acqua, sapete, proprio perché nessuno ha analizzato le contraddizioni con cui sta esplodendo questo tipo di segmento, a tutti i livelli, sia di varia che di scolastica. Va bene? E ve ne cito solamente due. Il modello del prezzo di copertina imposto e il modello della distribuzione cartacea nelle librerie. Va bene? Allora, io produco un libro che deve avere un prezzo di copertina non sapendo quante copie venderò di quel libro. Mi devo basare sul mio intuito, che è una contraddizione di termini, è impossibile azzeccarci, o sbaglio per eccesso o sbaglio per difetto, non c'è verso. Se io sbaglio per difetto, perché valuto che la Tamaro venderà solamente 1500 copie e poi ne vendo 1,5 milioni, quel prezzo di copertina che avevo fissato per le 1500 copie sarà assolutamente esorbitante, no? Per cui se ne vendo 1,5 milioni guadagnerò un fottio di soldi. E questo è il modello perseguito dal vecchio, dalla vecchia filiera. Seconda ragione, del prezzo di copertina che bene o male ho fissato, va bene, a me editore, cioè lo specifico del mio lavoro, che è anche il vostro lavoro, attenzione, perché da questo punto di vista siamo davvero dallo stesso lato della barricata, a me di quel prezzo di copertina arriva, se va bene, fra il 18 e il 20%. È chiaro? Perché tutto il resto è assorbito. Il 50% dal distributore, vero killer, vero culturicida, vero assassino della cultura nel nostro paese. Va bene, mi dispiace dirlo, c'è qualche distributore presente. Va bene. Dentro questo 55 fino al 60% ci sta dentro una percentuale in sé modestissima, voglio dire, per la sopravvivenza di questa azienda qui che si chiama libreria, no? Ma in realtà, voglio dire, esagerata rispetto alla logica del prezzo di copertina imposto, va bene? Dopodiché c'è circa un 20% che se lo mangia, il tipografo, il cartaio, il negatore, d'accordo? Per cui se io vado a ipotizzare, ma bene che vada, ripeto, il 50 al distributore quando non è addirittura il 60 e il 20, quando non il 30, i costi di produzione industriale che non riguardano il mio specifico, non ha nulla a che vedere con i contenuti, è chiaro che io sto ragionando su un modello che per forza di cose fa acqua da tutte le parti, sapendo che, e ho finito, che del distribuito il mio venduto, statisticamente parlando, è il 30% del tirato. Posso fare una domanda su questo veloce? Perché se ci sono tutti questi problemi di mercato nella vendita, allora e poi invece tutta questa situazione precaria per cui abbiamo detto che non conviene che t'assumo, allora vuol dire che il tagliare sul costo del lavoro e sui dipendenti significa assicurarsi per tutte queste altre cose che sono incerte? No, non è assolutamente questo, anche perché al contrario, io stavo parlando di due modelli editoriali che veramente si assomigliano pochissimo l'uno con l'altro, non sembrano neanche fratelli. Vuol dire, il modello industriale che produce mass market o scolastica sono due situazioni molto simili in realtà, e tutti gli altri che producono invece nicchie di contenuti che sono del tutto marginali. Vuol dire, se tu escludi la logica dell'azienda che produce mass market, quindi sono le 4, 5, 10 aziende che fanno quel tipo di lavoro ed escludi le 10 case editrici scolastiche che hanno mercati multimilionari in termini di fatturato prodotto e che quindi hanno una catena di montaggio analoga a quella della fabbrica, tutte le altre case editrici sono degli artigiani. Questa storia degli artigiani la tiro in ballo perché non è mai stata accettata per esempio nel nostro paese in termini legislativi, cioè non vi sembrerebbe normale che uno potesse parlare di un editore artigiano, va bene, così come si parla di un falegname o di una cosa, mentre invece per la legge italiana l'editore è per divisione industriale, cioè che l'Associazione Italiana Editori sia un'associazione di tipo confindustriale e che non si sia mai sollevato il problema a livello per esempio istituzionale dell'editoria come il luogo per eccellenza di capacità artigiane, è chiaro, dove addirittura proprio c'è una manualità del cervello, per così dire, no, nel fare le cose. No, questa è, quindi attenzione che noi dobbiamo distinguere molto queste due cose. Parliamo degli industriali, catena di montaggio, lì è evidente che la cosa è una cosa inaccettabile, scaricare sulla forza lavoro le contraddizioni di un sistema che non funziona più. No. Tant'è vero che sono proprio questi che hanno fatto fronte verso le innovazioni. La logica di questi apparecchietti qui, cioè di i famosi ebook reader, quelli che dovrebbero rivoluzionare la filiera della produzione e distribuzione, è una logica straordinaria perché questo significa solo tagliare via completamente quel 70% di costi che non hanno niente a che fare con il mio mestiere. Non pago la carta, non pago la legatura, non pago la distribuzione, non pago nulla, perché questo è semplicemente il mio lavoro, allo stato puro. E badate bene che anche dal punto di vista dell'autore, perché voi adesso rappresentate la figura del redattore, che poi la riprenderemo in seconda battuta, ma pensate all'autore, il 10% che normalmente prende un autore e che veniva considerato come assolutamente, come dire, modesto, in realtà se voi decurtate tutti i costi che sono poi a carico solo del lettore, quel famoso 70% di carta, stampa, legatura, distribuzione, libraio e quant'altro, va bene, in realtà di quel 20% residuo l'autore prende esattamente il 50% del netto del lavoro editoriale. È chiaro? Il che significa che oggi se io produco un ebook al mio autore posso proporre il 50%, perché non ho tutti gli altri costi.